ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. La mattina del 15 maggio, quinto giorno del nostro arrivo in Sicilia, Garibaldi si destò più presto del solito, e non erano ancora le 3 quando la sua voce si fece sentire. Fruscianti, che era già in piedi ed attendeva a preparare il caffè, mi disse: «Va tu, e verrò io tra un minuto». Entrai nella camera e detti il buongiorno. «Vuole darmi una tazza di caffè?» chiese il generale. «Un momento, generale, Fruscianti ve lo sta preparando. Piove?» «Deve aver piovuto alquanto qualche ora fa», risposi guardando dalla finestra, «ma adesso vedo un gran bel sereno». «Buon segno», esclamò Garibaldi scendendo dal letto. Gli cambiai addosso la camiciola, gli porsi i suoi abiti e andai per caffè. Invece del caffè pronto, trovai Fruscianti che bestemmiava come un turco, o meglio, come un toscano, perché la macchinetta del caffè gli si era rovesciata e aveva dovuto ricominciare da capo l'operazione. Il generale, che fu nella vita casalinga uomo amorevole, paziente e discreto quant'altri mai, non si impazientì per la tardanza della sua prediletta bevanda, ma infilati i calzoni, s'era data a passeggiare in su e giù per la camera e me ne accorsi al rumore dei passi pesanti e al tintinnio degli speroni. Quando quel benedetto caffè fu in punto, Fruscianti ed io glielo recammo. Lo bevette a lenti sorsi e bevendo disse a Fruscianti: «Andrete ad avvertire Sirtori che solleciti la partenza e fate che qualcuno vada a chiamarmi Tur». In quel momento un volontario mi recò la sciabola del generale che aveva pulita e fatta lustra come uno specchio, ed io entrai con quella nella sua camera dicendo: «Buone nuove, generale?» «Che volete?» rispose Garibaldi ilare in volto. «Quando le cose della patria vanno bene, bisogna essere allegri». Orbene, mentre io pensavo quali fossero i motivi che inducevano in tanta allegria il nostro condottiero, un suono di lontana tromba s'udì per l'aereo quieto. Da principio furono accordi, ma poi fu una sveglia tanto ben composta e gentilmente lieta che s'accordava a meraviglia col silenzio e quella romantica pace di quell'ora. Sostò Garibaldi come incantato, e quando la tromba si tacque esclamò: «Che cara sveglia! Non è parsa anche a voi di sentir nel cuore un non so che di melanconico e d'allegro che non si può spiegare? Mi rammento di aver sentito questa sveglia un'altra volta, la mattina del giorno in cui vincemmo a Como. Correte a chiamarmi quel trombettiere». Escii di corsa, accompagnato dal mio Nino Marchese, che mi guidò così al buio per certi scoscesi vicoli, pericolosissimi in causa delle pietre bagnate ancora dalla notturna pioggia. Trovato una caserma dove alloggiavano i soldati di Bixio, trovai anche il desiderato trombettiere, un bel giovine bergamasco poi ufficiale nell'esercito, e lo condussi meco. Garibaldi era seduto al tavolino e aveva scritto alcuni appunti. Quando vide il suonatore di tromba, gli chiese: «Siete voi che avete suonato la sveglia?» «Sono io, perché son solo di trombe». Infatti avevamo tra tutti un solo trombettiere e non più. «E chi ve l'ha insegnata quella sveglia?» «La imparai l'anno scorso nei cacciatori delle Alpi». «Dunque, la suonasta ancora nella mattina del giorno che ci battemmo a Como?» «Sì, signore, bravo! Pigliate questo scudo e suonate sempre quella sveglia. Avete capito? Non ve ne dimenticate». Uscito che fu il trombettiere, restammo soli. Garibaldi prese allora in mano alcuni fogli pieni d'appunti che erano sul tavolino e disse a me: «Sedete e scrivete». Presi la penna e aspettavo che dettasse, ma egli m'avvertì che non avrebbe detto se non l'idea di quel che avrei dovuto scrivere, e perciò stessi attento e non scrivessi ancora. Si trattava di mettere in buona forma certi decreti. Il primo doveva annunziare al popolo siciliano che Giuseppe Garibaldi s'era fatto dittatore. Il secondo istituiva la Guardia Nazionale. Il terzo dichiarava aboliti parecchi ordini religiosi maligni o ricchi, cominciando da quello della Compagnia di Gesù. Quando ebbi inteso ciò che dovevo fare, mi misi all'opera, mentre Garibaldi passeggiava la stanza per lungo e per largo. Cominciai a scrivere il primo decreto, intestandolo con la formula da me inventata nell'accampamento dinanzi a Rampegallo, la quale diceva: «Giuseppe Garibaldi, generale del popolo italiano», eccetera, eccetera, eccetera, come i lettori già sanno. Appena finito di scrivere il primo decreto, ne avvertì Garibaldi, il quale mi disse: «Leggete». Lessi. quando ebbi letto, egli mi venne vicino e soggiunse: «Cancellate quelle prime tre righe che non vanno bene». Lo guardai meravigliato, non sapendomi capacitare che quelle tre innocentissime righe non avessero a piacergli. «Scrivete come vi dico», ripigliò il generale, «Italia e Vittorio Emanuele, e poi seguitate, e va bene così». Ricopiai il decreto correggendolo come egli volle e scrissi gli altri due. Avevo terminato appena il mio lavoro quando entrarono nella stanza Sirtori e Tur. Il generale prese i tre decreti e li porse al suo capo di stato maggiore. Poi disse a me: «Dite che mi sellino il cavallo e fate che tutto sia pronto tra 10 minuti». Escii e feci quel che dovevo fare. E poi, tratta dalla scuderia la mia nuova cavalcatura, salì su e, tenendomi vicino il ragazzone siciliano, aspettai che il generale scendesse. A un'ora di giorno, poco più, stavano schierati 1000 fuori di Salemi, quando comparve il generale e ordinò che si suonasse «Avanti». Era una limpida e fresca mattina di primavera, e le odorose piante del mezzogiorno, stillanti ancora per la pioggia recente, imbalsamavano l'aria delle fragranze più care. La strada veniva inclinando con rapido pendio verso una spaziosa valle verdeggiante e fiorita, chiusa in fondo da una montagna altissima e bruna, accavallandosi di quando in quando sui monticelli che la frastagliavano coi loro fianchi. Si procedeva lentamente con cautela, come si usa farsi in vicinanza del nemico e con tutte le buone regole di guerra, marciando il generale con l'avanguardia come quelli che, in certi casi, non era uso fidarsi che dei propri occhi. Cavalcava un morello piccolo e pien di brio, e lo seguiva la sua scarsa improvvisata cavalleria, composta dei soliti suoi ufficiali, di Nullo, di Missori e di 7 o 8 siciliani. Venivano dietro, a brevi intervalli, le compagnie divise in 2 battaglioni, comandati da Bixio e da Carini, ai quali seguivano 2 cannoni montati, come ho già detto, su certi affusti fatti per compenso con migliori argomenti che poterono aversi in Salemi. Andavano ai fianchi della piccola colonna, percorrendo i campi, le squadre siciliane di Coppola e di Sant'Anna. Chiudevano la marcia i carabinieri genovesi. Tutta questa gente sommava appena a 15 centinaia, contandovi diversi ragazzi e non pochi uomini di toga e vecchioni venuti da Genova con la spedizione. V'erano armi e vesti d'ogni sorta. La lancia accanto alla carabina e alla sciabola irrugginita, la giubba e il paltò paesano in mezzo alle camicie rosse e alle varie uniformi dell'esercito regolare. La gente ci guardava stupita, e raro accadeva che qualche voce ci salutasse con un evviva, che non trovava eco o la trovava fiochissima. Saranno state 10, quando Garibaldi mi disse: «Andate un po' innanzi per la strada e cercate di scuoprire il nemico, abbiate cura di fermare tutta la gente che passa e di interrogarla e che nessuno passi innanzi a voi. Guardate però dove mettete i piedi perché non v'abbiano a pigliare prigioniero». Vennero con me 12 bergamaschi. Ma prima che mi allontanassi, Garibaldi mi chiamò indietro, raccomandandomi di non tirar fucilate se non in caso di assoluta necessità, e di guardare che pesci fossero certi uomini armati che aveva scorti col cannocchiale al di qua di Calatafimi. «Può esser certo», risposi, «che non sciuperemo cartucce, ma in quanto al vedere vedrò finché gli occhi mi aiutano». Anche questa volta il generale domandò un binoccolo per me, e il binoccolo me lo porse Francesco Crispi. Presi dunque la strada coi miei bergamaschi e camminammo alquanto, guardando per ogni parte e fermando e interrogando quanta gente si incontrava. Le risposte che avemmo da tutti confermavano la voce già sparsa che il nemico fosse numeroso assai ed agguerrito di alquante artiglierie, ma nessuno tra i passanti veniva da Calatafimi né poteva dirci quali posizioni avessero scelte i Borboni. Dopo un bel pezzo notai in distanza, sopra un'altura che sorge dinanzi alla città, una banda di alquanti uomini. Guardai col binocolo quei signori cavalieri. Erano benissimo in arnese e portavano in capo berrette nere con la nappa, simili nella forma al fez dei nostri bersaglieri. La mia guida ci fece entrare nei campi a sinistra della strada, volgendo le spalle a Calatafimi, ed entrammo in una bella vallata tutta verdeggiante di pianticelle, di fave e sparse qua e là di alberi da frutto. Le alture che chiudevano in faccia a noi la vallata erano piene di volontari. I poggi, che sorgevano dietro quelle alture, si cominciavano a coprire di numerose torme di villani che con le loro bestie andavano a cercare ricovero lassù e a godersi la battaglia imminente e risolvere, secondo l'esito di questa, a gridar «Viva Garibaldi!» o «Viva Re Francesco!». Ad un tratto una voce si udì per la valle silenziosa, ed era la voce di Garibaldi che mi chiamava «Bandi, fate presto!» mi gridò 2 o 3 volte, ed io, volgendomi dal lato opposto, vidi scintillare ai raggi del sole le armi dei soldati borbonici. Il siciliano, che aveva un buon cavallo, andò innanzi per conto suo. Io frustavo a più non posso, ma la mia rozza voleva fare il suo comodo. I bergamaschi, arrabbiati dalla sete, sgranavano baccelli, giurando a me che se non era la spedizione di Sicilia non avrebbero mai sognato che creature umane potessero mangiar crude le fave e trovarle buone. Trovai Garibaldi seduto sopra un greppio, intorno al quale sorgevano diverse piante di fichi d'India e qualche arboscello. Mi posi a sedere anch'io sulle erbose zolle e vidi le colonne nemiche escir fuori dalla città e avviarsi verso di noi per le colline dove già le aveva precedute l'avanguardia. A poco mi accorsi che la meta del loro cammino doveva essere il poggio che nascondeva sulla nostra sinistra la strada e dietro il quale stava schierata la cavalleria. Da quel poggio volevano asserragliarci la strada e magari girarci alle spalle, occupando, mentre combattevamo nella valle, il villaggio di Vita. I siciliani ci dissero chiamarsi quel poggio Pianto Romano, in memoria di una gran batosta colà toccata dai romani, dai soldati della città di Segesta, le cui rovine erano poco lontane da noi, tanto che si poteva distinguere a occhio nudo l'antico tempio famoso che sorge quasi intiero in mezzo alle vigne da cui si spreme il prelibatissimo segestano. Il nome di quel colle è un po' brutto, dissi, ma dove piansero i romani, tiranni del mondo, è giusto che ridiamo noi, nemici dei tiranni. Il generale approvò con un cenno della testa quel mio felice presagio e riprese il suo magno cannocchiale per guardare 2 cannoni nemici da montagna che sulla schiena dei muli venivano verso di noi con la prima delle 2 colonne in cui s'era diviso l'esercito regio. L'ora del combattere si avvicinava. Montanari conservava buona dose del suo umor bizzarro e aveva voglia più che mai di rinfrescarsi il becco per non combattere assetato. Fattosi presso il generale, dimandò a voce alta: «O quelle 2 bottiglie di cognac che aspettiamo a beverle quando saremo morti?» Garibaldi si volse sorridendo e disse: «Date il cognac a Montanari, che se lo beva e sia contento». Frusciante obbedì. Ma da buono e prudente custode delle robe del generale, invece delle 2 bottiglie, ne consegnò a Montanari una sola, ed egli, presala in braccio, la carezzava come un bambino in fasce, e ne versò qualche goccia nelle nostre bocche, misurando le gocce come se si fosse trattato di laudano di Sidenham o di qualche altro pericoloso medicamento. Vuotata la bottiglia, capimmo tutti che l'ora delle burle era passata e che stava per cominciare un ballo terribile, nel quale non era per noi un terzo partito da scegliere, oltre il vincere o morire. Pochi minuti prima del mezzogiorno, i soldati regi, giunti in 3 colonne sulle colline più basse dinanzi alla nostra, cominciarono a manovrare spiegandosi e ripiegandosi come se fossero sulla piazza d'arme, come se tentassero di impaurire con un'artificiosa mostra di forza e di disciplina le turbe degli scomunicati ladroni, cui non parea sembrar vero il fuggirsene senza pagar lo scotto. Garibaldi, seduto sempre sul suo greppo, guardava tranquillamente quello spettacolo, esclamando di tratto in tratto: «Per Dio! Come manovrano bene! Son belle truppe davvero!» Poi cominciarono a suonare le trombe, e suonavano che era meraviglia a sentirle. Erano le trombe dell'8° battaglione dei cacciatori. Il generale stette un pezzo a sentir quella musica, fumando sempre il suo sigaro, e quando la musica tacque, si volse a noi e disse: «Hanno buone trombe davvero! Facciamo che sentano un po' la nostra!» E soggiunse, volgendosi: «Dov'è la mia tromba? Son qui!» rispose il trombettiere Tironi, che sedeva pochi passi indietro sull'erba, e Garibaldi a lui: «Fate sentire a quella gente la mia sveglia!» Ci guardammo in faccia meravigliati, e credemmo che il generale burlasse, ma egli non faceva segno di ridere. E il trombettiere intonò, con chiara e sonante voce, la stessa sveglia che nelle prime ore di quella mattina gli aveva procurato tanta lode e una bella moneta da 5 lire. In quel momento, guardando coi binoccoli i cacciatori nemici che cominciavano a spiegarsi a mo' di ventaglio, notammo che si fermarono all'improvviso, stupiti di quella singolar cantilena della nostra tromba, tutta dolcezza e serenità. La solennità dell'ora, il silenzio profondo della valle e la novità di quel suono debbano aver fatto credere ai napoletani che qualche fata si pigliasse gioco dei fatti loro, o che noi togliessimo a canzonarli rispondendo con le soavi modulazioni dell'idillio alle provocatrici note delle squille guerriere. Dopo che il trombettiere ebbe ripetuto la sua cantilena, Garibaldi gli fe cenno che tacesse e disse a noi che gli eravamo accanto: «Adesso pensiamo a dar 2 buone bastonate a quei signori». Mentre egli così dicea, Desiderato Pietri saltò giù dal greppo e col mio fez in testa e il suo bravo schioppo in mano si diede a camminare contro il nemico in mezzo alle fitte pianticelle delle fave che coprivano la campagna. Tosto io dissi: «Generale, devo chiamarli indietro, quel matto? Lasciatelo fare», rispose il generale, «ognuno ha la sua ispirazione». Tacqui e seguitai a guardare. Il povero diavolo, tratto pei capelli dal suo destino, camminò ancora 100 o 200 passi e poi fece alto e si inginocchiò. Garibaldi trasse fuori l'orologio e disse: «Guarda, è mezzogiorno giusto». Il cielo era sereno e tranquillo e non si udiva per tutta la vallata lo stormire d'una foglia. I volontari erano distesi sull'erba, guardando il nemico. Avevo in quel momento accanto a me 2 bersaglieri, 3 o 4 passi indietro avevo Nino Marchese. «Nino», gli dissi, «tra qualche minuto sentirai fischiare le palle, sta fermo e guarda me, e quando vedrai che io salto giù, seguimi senza paura e non fermarti sinché io non mi fermi». Nino sorrise e alzò il cane della carabina. A quel rumore il generale volse il capo ed esclamò: «Nessuno faccia fuoco senza mio ordine! Tirare da lontano il segno di paura!» In quel mentre le trombe napoletane suonarono avanti e udimmo le voci dei capi quadriglia ripetere i comandi. Poi, dopo alcuni istanti, udimmo uno strano coro di impertinenze che quei bravi cacciatori ci regalavano per antipasto, mentre venivano innanzi gobbi gobbi, come se andassero a caccia alle quaglie. Gridavano quei poveri soldatelli: «Movenim, movenim, straccioni, calognoni, malandrini!» Un altro squillo di tromba e le palle cominciarono a fischiare sulle nostre teste. I 2 bersaglieri che avevo alla mia sinistra mi guardarono con tanto d'occhi, e io accennai loro che stesser fermi. Infatti il generale, che s'era accorto che i fischi delle palle e l'avanzarsi rapido dei cacciatori aveva già messo l'argento viva addosso ai volontari per tutta quanta la linea, si raccomandava più che mai dicendo: «Non tirate! Fermi, ragazzi, lasciateli venire qui sotto e poi li piglierete a legnate!» Ma il generale propone e il soldato dispone. Chi poteva mai tenere più lungamente al canapo tanti puledri? Nel tempo che il generale si raccomandava e tutti gli ufficiali ripetevano le sue parole, Carlo Mosto, fratello del capo dei carabinieri genovesi, gridò: «Indietro, canaglia!» A questa voce tenne dietro un colpo di carabina. A quel colpo ne seguirono altri 2, tirati da 2 bersaglieri miei vicini. Tosto altri 100 rimbombarono e nel punto stesso Francesco Nullo, sbucato a cavallo da dietro una macchia, si slanciò con la sciabola nuda per la valle gridando: «Avanti, alla baionetta!» Strappai di mano al trombettiere lo schioppo e saltai giù nel greppo. Mi seguì Montanelli con la sciabola in pugno. Garibaldi gridava: «Per Dio, non possono star fermi un momento!» Altre parole non potei udir di sua bocca, ma è certo che egli impedì, non senza grande difficoltà, che tutto il suo piccolo esercito non si precipitasse all'assalto. Corremmo un bel pezzo dando la caccia ai cacciatori fuggenti che volgevano a frotte verso sinistra, cercando riparo sul poggio che indicai col nome di pianto romano, su qual poggio erano in batteria 2 cannoni sostenuti da parecchie compagnie. Volgendo dunque a sinistra, incontrammo una casetta disabitata e diverse piante di fico in fondo a un'erta assai ripida che era necessario salire in barba alle palle e alla mitraglia che cominciavano a tempestare. Non so quanti fossimo allora, ma eravamo pochissimi. Appena principiammo a salire, quell'erta cadde Giorgio Manin. Volli rialzarlo, ma non fu buono a reggersi in piedi e ricadde. Passò in quel momento Benedetto Cairoli con la sua compagnia e ci salutammo gridando «Viva l'Italia!». Eran pavesi per la maggior parte e correvano con la miglior voglia del mondo. Ci unimmo a loro, ma dopo pochi passi Francesco Montanari cadde bocconi. «Che hai, Montanari? Una palla! In un ginocchio!». Lo volemmo rialzare, ma fu lo stesso che alzare un cencio. «Aspettami!», dissi. «Verranno a prenderti o ti prenderò io quando sarà tempo!». Il poveretto, mi par di vederla ancora, alzò la mano 3 volte o 4, finché io mi volsi a guardarlo e parei a dirmi «Non ti scordar di me!». Quando giungemmo sotto la spianata che sovrasta al poggio, eravamo trafelati. Fortuna volle che il ciglio della spianata venisse giù in guisa di parapetto, un po' più che ad altezza d'uomo, e ci servisse di riparo, dal quale ci fu agevole il tener fermo alquanto il nemico, bersagliandolo con le carabine dei genovesi e con quegli schioppi della compagnia di Cairoli, che furono buoni a far fuoco. Mentre stavamo sopra il ciglio della spianata, 2 o 3 volte i napoletani mossero, correndo per venirci addosso, e altrettante volte si fermarono e tornarono a fianchi dei cannoni. Noi li udivamo gridare «Vivo re! Vivo re!» ed una volta intonammo il nostro inno, ma per la gran fatica della corsa fatta si rimase a mezza strofa. Intanto uno dei genovesi, che ebbe nome Profumo, bello e carissimo giovane, sollevandosi sul parapetto, fu colto da una palla e lasciato lì sul tiro. I compagni l'appoggiarono con le spalle al greppo e parea che dormisse. Lo baciai e volli sentirgli il cuore di quel martire, batteva ancora. Pochi minuti erano corsi da quella seconda ritirata, quando alte grida che suonavano dietro di noi ci avvertirono che nuova gente veniva a soccorrerci. Precedei a quella gente Nino Bixio a cavallo, il quale, chiamando a nome quanti di noi conosceva, cominciò ad invitarci ad un terzo assalto e si mise a correre intorno alla spianata agitando la bandiera di Garibaldi che aveva nelle mani. Le gran schioppettate che ebbe quel demonio quando fu alla destra della spianata, dove il ciglio era bassissimo e non offriva alcun riparo, sono impossibili a ridirsi, ma pareva fatato. E corse e ricorse e sventolò la bandiera sul viso ai nemici senza che neanche lo stoppaccio d'uno schioppo lo cogliesse, per quanto i cacciatori lo tempestassero talvolta quasi a bruciapelo. I regi erano stati ingrossati da parecchi rinforzi. Noi eravamo il doppio più di prima. La zuffa ricominciò più accanita e feroce. Le palle grandinavano da ogni parte. Di tanto in tanto si sentiva passare sulle nostre teste la mitraglia, flagellando l'aria come il vento che stormisce furioso fra le fronde. Era una pugna feroce, dolorosa, unicamente perché fra italiani si combatteva. Il gruppo dei garibaldini più vicino a me era formato da Menotti, da Elia e da Schiaffino, che aveva la bandiera. I borbonici erano quasi sull'orlo del ciglio della spianata e menavano santi busse. Un drappello di costoro, veduta la ricca bandiera, si fe vicino al terzetto e cominciò a serrarglisi sopra. I 3 moschettieri, belli e bravi quanto possono essere 3 eroi dal romanzo, tirarono colpi di carabine e di revolver finché ebbero cariche le armi. Poi si avventarono con le baionette in resta contro gli assalitori. Me ne rammento come in sogno, perché io pure avevo pane per i miei denti. Il drappello dei cacciatori, che voleva conquistare la bandiera ad ogni costo, si spinse gridando addosso ai 3 compagni. 2 cacciatori afferrarono la bandiera e ne strapparono un lembo. Elia e Menotti li respinsero ancora. Vedendo la bandiera in quel tremendo risico e quasi sola nel mezzo ai nemici, cominciai a gridare «Saldiamo la bandiera! Saldiamo la bandiera!» e 3 o 4 che mi erano più vicini mossero con me verso la bandiera. In quell'istante, cioè quando fummo distante 20 passi o poco più dal valoroso terzetto, sopraggiunsero 7 o 8 cacciatori, a capo dei quali era un sergente alto della persona e rosso, e tutti insieme, unitamente agli altri, avvilupparono i 3. Il fucile del sergente, appoggiato con la punta della baionetta al petto di Schiaffino, fece fuoco, e Schiaffino cadde indietro sollevando in alto, nel cadere, la bionda e lunga barba, e lasciò la bandiera, che in mezza grida di giubilo sparì dai miei occhi. Nel tempo stesso che Schiaffino cadeva, Menotti era ferito in una mano, ed Elia riceveva una palla in bocca, che lo stese per morto. Stando fermo nel punto dove mi ero messo, vidi improvvisamente quel sergente rosso che aveva ucciso Schiaffino ricaricare a pochi passi da me il suo schioppo e guardarmi fisso con certi occhi che, ripensandosi, mi paiono fossero 2 carboni accesi. Capii subito che se quel diavolo terminava di caricare il fucile, ero spacciato per eterna secula. Laonde spianai la baionetta e, gridando il nome di Garibaldi, mi slanciai sul sergente. Io non so dire se fu il sergente o se fu altri che mi tirò, ma sta il fatto che una gran botta mi colse sopra la mammella destra e caddi per terra, non altrimenti che mi ci avesse spinto un vigoroso pugno. Un urlo feroce salutò la mia caduta, e quell'urlo lo mandò il sergente, lo mandarono i suoi compagni che, avendomi visto indosso una divisa che si distingueva dalle altre, credettero che la fortunata palla avesse tolto dal mondo un qualche pezzo grosso e non un pover'uomo qualunque nato e destinato a far numero. Mi riebbi quasi subito e mi ritirai indietro carponi, e così percorsi un tratto di 40 o 50 passi, finché non vidi un gran numero dei nostri farsi innanzi e non udii tante voci gridare «Salviamo il generale!». Alzai gli occhi e vidi allora Giuseppe Garibaldi nell'attitudine nella quale auguro che lo vegga in sogno lo scultore che primo dovrà modellare la statua dell'eroe. Aveva il cappello sugli occhi, lo sguardo acceso, la bocca sorridente, un pezzo di sigara in bocca, e stringeva con la destra la sciabola e stava dritto come sta San Giorgio effigiato da Donatello. Veduto il generale saltai su, ed ei mi vide subito e mi disse, vedendomi insanguinate le mani, «Bandi, che cosa è stato?» «Nulla», risposi, «una pillola che mi è toccata, ma spero che la digerirò». Tutti si serravano intorno a lui, e conobbi che il momento era terribile, e le palle fischiavano e miagolavano da tutti i lati. Sirtori giunse proprio allora, galoppando su di un cavalluccio, e si fermò accanto a noi, chiamando con gran voce i soldati che aveva intorno e che erano le ultime carte che si giocavano in quell'incerta partita, e chiese al generale, «Generale, che dobbiamo fare?» Garibaldi guardò intorno e con voce tonante gridò, «Italiani, qui bisogna morire!» E per vero la gente moriva, e moriva volentieri, ma quella tempesta di palle che ci sfolgorava per ogni parte aveva cominciato a dar da pensare a parecchi. È fama che in quel momento disperato Nino Bixio dicesse a Garibaldi, «Generale, ritiriamoci», ed è fama che Garibaldi rispondesse a Bixio, «Ma dove ritirarci?». Quelle parole non giunsero ai miei orecchi, e io debbo registrarle sulla fede degli altri, senza però mettere in dubbio che fossero pronunziate veramente, perché così la domanda come la risposta mi paiono naturalissime ed adatte quanto mai alle strettezze di quell'ora. Nino Bixio aveva ragione di dire a Garibaldi «ritiriamoci», e Garibaldi aveva 100.000 ragioni per rispondere come gli rispose. Dove potevamo ritirarci? Non era chiaro che, volgendo noi le spalle su quel terreno quasi nudo, saremmo stati conci a quel biondo Dio prima che avessimo riguadagnato le colline di rimpetto? E non c'era anche da aspettarsi che le turbe numerose dei siciliani, che s'affollavano sulle cime dei più alti poggi, aspettando l'esito della battaglia, nel vederci rotti e fuggiaschi, ci si chiarissero nemiche? Non c'era da scegliere, era necessario farsi largo tra i nemici o saper morire, ripetendo il grido dei fratelli Bandiera. Chi per la patria muor, vissuto è assai.